si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buon sabato cari ascoltatori. Se siete stufi di sentir parlare di crisi economica e dei mali della politica italiana, allora seguiteci perché vi porteremo per altre strade. 800 24 00 24 anche con il vostro intervento in diretta. A proposito di strade, saranno chiuse alle auto domani quelle di Milano e Roma perché tornano le domeniche ecologiche. A Roma è la terza dell'anno, dalle 8.30 alle 17.30 si fermeranno le auto. A Milano dalle 10 alle 18 e ci sono una miriade di iniziative per chi vuole andare a spasso, a piedi, in bicicletta, sui monopattini, come preferite. E oggi proprio su questo vogliamo la vostra opinione, perché c'è un po' di scetticismo intorno a queste iniziative, come è normale che sia sempre. Si dice, beh, ma non dipende dal traffico delle auto, lo smog, poi sono cose solo simboliche, non servono a nulla. 800 24 00 24, noi invece che siamo dei linguaristi ottimisti, la nostra risposta alla domanda servono le domeniche ecologiche è naturalmente sì, servono se sono inserite naturalmente insieme ad altre cose, ci fanno capire che andiamo nella direzione giusta. 800 24 00 24 oggi, su questo vogliamo il vostro intervento in diretta tra pochissimo. Un'altra segnalazione che riguarda sempre la giornata di domani è un altro evento tra campagna e ambiente, un'iniziativa lanciata da uno dei leader del mercato dei prodotti biologici, Ecornatura Sì. Ebbene sì, dalle cascine orsine di Bereguardo a Pavia, alla fattoria di Vaira a Campobasso, dal parco della Chiusa di Casalecchio a Bologna, fino a Isola Capo Rizzuto in Sicilia e ai Casali del Piano vicino Roma. Sono solo alcune delle località scelte tra i 27 appuntamenti in tutta Italia per la semina collettiva promossa appunto da Ecornatura Sì. Cosa succede presso queste aziende agricole biologiche e biodinamiche, potete informarvi e cercare quella più vicina a casa vostra. Si va a seminare dei semi sul terreno, magari portandosi dietro i bambini che possono scoprire questo mondo, e poi nel corso dell'anno si può tornare su in queste fattorie a vedere come stanno crescendo le proprie piantine biologiche. Un'iniziativa che è già al secondo o al terzo anno, Seminare il futuro, è che vuole sensibilizzare contro l'invasione possibile degli OGM, cioè per una produzione agricola sana e naturale. Però questa è stata anche la settimana e lo sarà ancora di più la prossima forse, in cui si è parlato molto di produttività. Ci sarà l'incontro tra il governo e le parti sociali, le imprese e i sindacati, si cerca di rilanciare la crescita, però noi sappiamo che quando si parla di produttività c'è sempre da una parte le imprese che chiedono di lavorare di più e dall'altra i sindacati che invece dicono, beh, si potrebbe lavorare un po' di meno. Ci siamo chiesti, si può uscire da questa cosa qua? E abbiamo trovato alcune risposte. La musica sul lavoro aumenta la produttività. Secondo una ricerca del professor Ravi Mehta dell'Università dell'Illinois, anziché distrarre, la musica sul posto di lavoro pare possa rendere meno stressati i dipendenti e aumentare creatività e produttività. Sono ricerche serie come quella, per esempio, del giapponese Nittono all'Università di Hiroshima, secondo cui guardare su internet cuccioli di animali può rilassare, distrarre e può favorire anche in questo caso la produttività. Sappiamo che anche su questo ci sono pareri discordanti, perché c'è chi dice che i social network e internet possono distrarre. Ci sono invece altre ricerche, come per esempio anche quella condotta dall'Università di Singapore, che secondo la quale 10 minuti di pausa durante il lavoro sfogandosi su internet con i social network può favorire la produttività. Ultima, citiamo una ricerca di qualche giorno fa dell'Università Bocconi di Milano, prestigiosa, secondo la quale la flessibilità in Italia se ne parla molto, ma è ancora poco utilizzata, soprattutto quando i lavoratori chiedono di fare il part-time, per esempio, le porte spesso sono chiuse. E noi oggi vogliamo parlare con il capo di un'importante azienda straniera che opera anche in Italia, proprio di questi argomenti, e che ha da raccontare una bella storia. Thank you. È una rivoluzione quella annunciata dai dirigenti della Siemens con il progetto Siemens Office già qualche tempo fa. E guarda come mi diverto, forse è quello che si aspettano di sentir dire dai loro dipendenti dopo proprio il via di questo progetto, che prevede nuovi modelli lavorativi per favorire, insomma, per far star meglio le persone sul luogo di lavoro. Ma poi, siccome trattandosi di un'azienda, naturalmente quello che interessa alla fine è anche proprio il concetto di produttività, si spera di ottenere risultati migliori. Ne parliamo niente proprio di meno che con l'amministratore delegato di Siemens Italia, Federico Golla. Buongiorno. Buongiorno a lei. Che in questo momento si trova all'estero, ci dedica qualche minuto per parlarci di questo progetto che è partito qualche tempo fa, ma si sta estendendo, è partito in fase sperimentale, adesso lo state allargando un po' a tutte le aree della produzione della Siemens, non solo in Italia. In che cosa consiste questo progetto? Ma il progetto è un progetto molto bello. Lei nel titolo ha citato il si può fare, io direi si può e si deve fare. Il progetto è un progetto che privilegia la flessibilità del lavoro, gli spostamenti del personale, la maggiore autonomia e quindi la maggiore soddisfazione sul posto del lavoro. Oggi abbiamo in Italia, ma il progetto è partito a livello internazionale in più di 27 paesi, in Italia abbiamo 1000 persone fra le sedi di Milano, Roma e Genova e altre prossimamente che lavorano già a questo concetto. Che è un concetto molto semplice che potrei sintetizzare in una frase. Sì. Quello che devi fare, fallo dove vuoi, fallo quando vuoi, ma fallo in tempo e fallo bene. Beh, quindi questo abbatte drasticamente tutte le barriere dell'ufficio classico, dove per fare una cosa si presupponeva la presenza fisica delle persone. Lei ha fatto un bel cappello introduttivo, io però voglio qualche gustoso particolare anche per chi non conosce questo mondo. Io leggo dai vostri comunicati che in azienda avete rivoluzionato gli spazi, si occupano meno spazi, ci sono meno uffici vuoti, aree silenziose per le attività che richiedono concentrazione, caffetteria per le riunioni informali, poi naturalmente, come diceva lei, insomma, si lavora anche da casa, valigia, computer portatile, orari flessibili, quindi anche per le mamme, per esempio, questo può essere un bel aspetto. Sono tante le cose che state facendo, ci dica qualcuna che io non ho detto, magari così per ingolosire gli ascoltatori. No. Ma quello che lei ha detto è tutto vero. Il dato fondamentale è la flessibilità dell'orario, perché era un vincolo grossissimo per chi si doveva muovere al mattino a una determinata ora e la sera. Noi sappiamo che nelle grandi città italiane non, il traffico è un problema rilevante. Posso dirvi qualcosa che non ha funzionato, perché fino ad oggi ha funzionato tutto molto bene. Una delle barriere iniziali è stata quella di convincere i senior a dover abbandonare la loro postazione di lavoro abituale e di mescolarsi all'interno di un'area mista, disegnata diversamente. E questo è stato l'ostacolo normale, psicologico. Per una questione di status, immagino, sì. Spazio privato che, certo, che è il nostro mondo ufficio di ogni giorno. Eccoci di nuovo in diretta con l'amministratore delegato di Siemens Italia, Federico Golla, col quale stiamo commentando e parlando di come loro stanno affrontando la sfida della produttività. 800 24 00 24 per intervenire in diretta tra poco. E poi non dimenticate la pagina Facebook, si può fare trattino radio 24, facciamo un po' di interattività. Allora però riprendiamo l'argomento. Io le ho chiesto numeri su un aumento della produttività, se lo avete riscontrato, e come cosa vi aspettate che accada, e poi anche sul dibattito in Italia a proposito di produttività. Questa è la settimana in cui se ne sta parlando, ci sono incontri, si cerca di rilanciare la crescita, non si trovano però spesso, questa è la sensazione che si ha da lettori dei giornali, insomma, non si trovano strade. Voi per esempio questo processo innovativo lo avete condiviso anche con i sindacati, come vi inserite in questo dibattito più generale? Sì, noi questo processo innovativo l'abbiamo condiviso con i sindacati. Devo dire, all'inizio i più erano scettici che è sempre difficile passare da un metodo tradizionale a un metodo moderno. Il tema oggi dibattuto della produttività è un tema inevitabile perché è legato alla situazione di crisi che tutti viviamo. Io credo che sia più banale dire lavorare più o lavorare di meno, si può lavorare di meglio, questo si può fare. Lavorare meglio vuol dire avere dei criteri diversi di impiego del proprio tempo. Lei mi chiedeva qualche dato, ma un primo dato, il più semplice, è quello della riduzione degli spazi che dà produttività all'azienda. Noi oggi nelle sedi dove abbiamo adottato questo nuovo metodo di lavoro abbiamo bisogno del 30% in meno di metri quadri. Quindi un bel risparmio per l'azienda. Già questo taglia, diciamo, i costi è una buona notizia per... È una buona notizia per l'azienda, poi naturalmente anche per i lavoratori nel momento nel quale questo taglio poi si risolve anche in questi risparmi, diventano anche premi di produttività o altri vantaggi per i lavoratori. E poi c'è anche il tema per esempio del risparmio ambientale, perché ci sono meno spostamenti casa-lavoro, anche questo l'avete messo in conto, anche se questo non va in tasca direttamente all'azienda, ma non conta, va in tasca a tutti noi. Ma la nostra azienda è una delle prime che ha fatto della green economy uno dei suoi obiettivi strategici, per cui contribuire all'abbattimento della CO2, all'abbattimento dell'inquinamento, muovendo meno persone possibile, è sicuramente un dato che non va nei dati di produttività dell'azienda, ma va nei dati globali dell'environment, cosa diciamo obbligata. Un altro tema importante sulla qualità del tempo impiegato. Sì. Qui si è discusso nel passato un quarto d'ora di pausa in più, mezz'ora di lavoro in meno, non è questa la soluzione dei problemi. Noi abbiamo verificato in modo un po' sommario ancora che la gente che lavora da casa o che dispone meglio del suo tempo, alla fine lavora di più. Fa tutte le pause perché... che vuole, quando vuole, come vuole, perché addirittura si trova a casa, quindi non ci sono sorveglianti, però poi la qualità e gli obiettivi del lavoro vengono rispettati e sono addirittura migliori. Quindi questo dibattito sulla 15 minuti di pausa, lei, se volessimo usare un termine, lo potrebbe definire surreale un po', dal suo punto di vista. Ormai sì, per il nostro approccio del lavoro direi proprio e pensare che invece noi siamo stati inchiodati su questa cosa per mesi sui giornali e non si parlava d'altro. È un retaggio. Va bene, è un retaggio che va superato. Sì. Assieme al sindacato, assieme a tutte le forze sociali. Mi fermerei noi qua. Noi lasciamo liberi le persone di fare quello che credono e ognuno esprime al meglio di se stesso sia nel lavoro che nella vita privata. C'è chi gli piace lavorare alle 2 del mattino e chi è lavorare all'alba. Certo, poi cari amici ascoltatori, non esagerate se col lavoro, perché sennò poi alle 2 di notte non datevi troppo da fare. Grazie Federico Golla, amministratore delegato di Siemens Italia, ci ha raccontato il caso Siemens Office. Avete sentito, una strada diversa per uscire dalla trappola della produttività e per trovare appunto nuove soluzioni. Insomma, poi ci torneremo su questo caso per vedere come è andata a finire, e useremo tra l'altro la frase di Golla: si può fare una produttività diversa come promo per il programma, è evidente. Adesso voglio salutare Daniel Tarozzi, il nostro prossimo ospite in viaggio per l'Italia che cambia. Buongiorno. Direttore del cambiamento.it, adesso il suo viaggio lo trovate in italiachecambia.org. Perché ti abbiamo convocato anche oggi, Daniel? Perché parlando di produttività, oggi tu sei in Sardegna per questo viaggio che stai facendo in un'Italia diversa, in un posto stranissimo, perché in un posto dove si parla di un nuovo modo di produrre l'agricoltura, magari meno intensivo ma altrettanto produttivo, ed è questo il punto che ci interessa. Sei all'assemblea plenaria della permacultura. Esattamente. Dopo una notte in traghetto sono finito qua dalle parti di Olsai in Barbagia e a Supinnetto, e quest'anno si trovano qua tutti i permacultori d'Italia. Cosa sono i permacultori? Di cosa si tratta? I permacultori sono delle persone, giovani, anziani, un po' di tutte le estrazioni sociali, che hanno deciso di adottare un diverso modo di approcciarsi all'agricoltura e non solo. La permacultura nasce in Australia come approccio inizialmente specifico sull'agricoltura e nasce dalla valutazione proprio della produttività, in qualche modo dell'efficienza energetica, laddove in questo caso efficienza energetica non si riferisce al consumo dell'energia elettrica, ma dell'energia delle persone e dei sistemi agricoli. Quindi però facciamo qualche esempio, perché sennò così io ho capito, ma insomma, diamo qualche immagine concreta. Sì, scusa Daniel, ma sai com'è. Sì. Loro partono dall'analisi di quanta fatica devono fare i contadini per coltivare la terra e sviluppano le tecniche per ridurla. Ad esempio, un vecchio adagio è: la terra è bassa e bisogna spaccarsi la schiena. Verissimo. Questo è vero in molti casi, lo sarà sempre, però per esempio per orti di non eccessive dimensioni si possono sviluppare i bancali, che sono delle strutture rialzate che permettono banalmente di raccogliere i frutti della terra senza doversi piegare. Ma non solo, anche coltivando in modo diverso la terra si ha una produzione che via via col passare degli anni è maggiore, diminuendo lo sforzo. In pratica non si danno sostanze chimiche, non si apportano cose che danneggiano la terra, ma la si arricchisce. Inizialmente è una produzione quantitativamente minore, ma via via la produzione aumenta, soprattutto aumenta la qualità e diminuiscono gli sforzi sia delle persone sia dei costi per mantenere questa terra. Un principio base che loro hanno è quello di apportare nella terra più e risorse di quelle che togliamo, perché spesso coltivando la terra con metodi tradizionali, dopo un po' di anni questa non produce più nulla. Si impoverisce, certo, anche questo è un problema di cui abbiamo sentito parlare. E quanti sono gli ospiti di questa assemblea plenaria? Cioè, credi che possa essere un movimento che esca dalla nicchia per conquistare un pochino più ampie platee? Sì, ovviamente siamo agli inizi, perché è arrivato in Italia da pochi anni. In questo momento qui in Sardegna sono una cinquantina di persone, che però, considerando la location non troppo comoda a livello di mezzi e tutto, è già un buon risultato. Tra l'altro moltissimi. Potevate giovani, scegliere un posto più semplice, che ne so, Roma. Non l'ho scelto io. Lo so che ogni anno fanno rotazione, però so che i partecipanti sono molte centinaia, soprattutto anche nelle città, proprio alle porte di Milano. Sono stato a Cascina Brera qualche giorno fa a vedere le persone che usano la permacultura da una decina d'anni con grandi risultati, ma un po' in tutta Italia. Io in questi giorni andrò a incontrare molte coppie di giovani ragazzi che si sono trasferiti qui in Sardegna per praticare questo tipo di agricoltura. Quelli che la praticano mi assicurano che dopo uno sforzo iniziale i risultati si vedono ad arrivare. Cari ascoltatori, non dimenticate la pagina Facebook di Si può fare trattino Radio 24. Oggi siamo partiti, potete andare a commentare le storie che avete sentito e lasciare le vostre buone notizie della settimana. Siamo partiti, dicevamo, dal tema della produttività. Abbiamo raccontato il caso della Siemens Office, l'azienda presente in Italia, che da un paio d'anni sta sperimentando un nuovo modo di produrre, di far lavorare i lavoratori da casa in modo flessibile, con orari gestiti in autonomia, con una concezione diversa dello spazio e del tempo, e i risultati si stanno vedendo, ha detto ai nostri microfoni l'amministratore delegato di Siemens Italia. Il dibattito italiano sulla produttività e sul lavorare di più, lavorare di meno, sui 15 minuti di pausa è surreale, anzi surreale l'ho detto io, lui ha detto è superato. Però oggi vogliamo anche i vostri interventi all'800 24 00 24, per fare il punto sul dibattito. Le domeniche a piedi, le domeniche ecologiche, perché domani ci saranno a Roma e Milano, servono o non servono? Valerio da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Che ci dice? Pronto? Sì, pronto, la sentiamo. Che ci dice sulla domenica a spasso? Sì, no, io dico praticamente che il problema è che noi non usiamo le fonti di energia alternative, come possono essere per esempio le auto elettriche. Non le possiamo usare, cioè siamo impossibilitati a usarli, soprattutto perché non hanno dei distributori dove possiamo ricaricare queste macchine elettriche, che attualmente sono in commercio, ma nonostante siano poche non possiamo usarle, e quindi ci ritroviamo sempre a dover alimentare questo sistema petrolifero che chiaramente fino a quando non ci lascerà a piedi. Ovviamente ci sono però delle colonnine in giro per la città, io non so, non ho l'auto elettrica, non so esattamente di cosa si tratti,

Buongiorno a lei, buongiorno. Qual è il suo intervento? La mia idea è il progetto, magari un po' da pazzi, realizzabile, però era... A noi ci piacciono le idee da pazzi, prego. Quello di avere un'Italia dove sì. è vietato l'uso delle macchine private. Cioè in tutto il territorio. E l'uso dei mezzi pubblici a gasolio, su tutto il territorio. Non si vendono più macchine, tutte le persone che prima lavoravano per quello che era l'indotto... Se la sente Marchionne, la viene a cercare a Modena, la strozza. Mi venga a cercare, che è una vita che sento che la Fiat è sul collo degli italiani, quindi che mi venga pure a cercare. Io non ho mai avuto crediti della Fiat, quindi posso dire quello che voglio. Senta, ma voi a Modena ne fate di domeniche ecologiche oppure non avete il problema dello smog? Tra l'altro siete sempre in cima alle classifiche di piste ciclabili e di tutto. Sì, a Modena siamo poi favoriti dal territorio, quindi diciamo che il problema bicicletta non è mai stato un problema. Non è un problema, anzi è un'opportunità. Esatto. Lei ci va in bici? Io ogni tanto sì, ne approfitto dal lavoro, lascio la macchina quando posso, quando non devo. Io faccio l'artigiano, quindi molte volte mi capita di andare a caricare chili di cose, ma proprio da questo mi è venuta l'idea, nel senso che se io avessi la possibilità di andare a lavorare in bicicletta e avessi la possibilità di avere dei corrieri che girano per me, elettrici, avere la possibilità di poter spostare merci elettricamente e... dove ci sono persone che lo fanno per me, la cosa sarebbe molto più vantaggiosa per tutti. Però tornando alla domenica a piedi, mi sembra di capire, lei è favorevole, cioè è un fatto simbolico, però dimostra che andiamo nella direzione giusta o che bisogna spingersi di più in quella direzione. Secondo me sì, le macchine sono una strada, un cul-de-sac. Va bene, grazie Enrico da Modena. Insomma, l'idea di trasformare l'Italia in una immensa zona a traffico limitato non è male. Certo, bisognerebbe essere un po' meno drastici, perché insomma, togliere del tutto l'auto agli italiani, ma a chiunque, forse è un po' troppo. Però immaginare tutta una zona o dei criteri per l'uso dell'auto, per esempio in città o a bassissima velocità, qualcuno ci sta pensando, scendere da 50 a 30 km orari. Grazie Enrico da Modena per la sua idea, che è anche un po' una provocazione. Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino. Fai assaggiare un pezzettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa roba? Contro gli sprechi degli alimenti, contro la mania di usare poco e gettare, e insomma per un consumo più consapevole dei prodotti della tavola, arriva il Food DJ che immagino mescolerà questi ingredienti della tavola anche con la musica, oppure no, non lo so, glielo chiediamo. Nicola Di Fino, buongiorno. Ci sono, buongiorno. Lei che cosa fa esattamente? Perché abbiamo letto la sua storia, è stato invitato in varie occasioni a presentare le sue performance, cucina, parla con la gente e dimostra che non bisogna sprecare a tavola. Esatto, ma questo nasce esattamente da questa problematica. In Italia buttiamo un terzo della roba che compriamo, meglio, della produzione totale. I dati europei sono abbastanza sconcertanti, perché buttiamo via circa 89 milioni di tonnellate di cibo. Questo è una cosa assolutamente insostenibile sia per l'economia sia per la terra, per cui... Vabbè, ma lei però su questo tema che un po' conosciamo, cosa fa esattamente? Qual è la sua performance? Faccio uno spettacolo di cucina dove mixo alimenti, o meglio generi alimentari con generi musicali. Per esempio? Parlo di un alimento, ma ci abbino un disco... oppure invito amici DJ che mi fanno un DJ set mentre io cucino e racconto un po' la storia dei cibi, oppure raccontiamo le nostre abitudini a tavola. Cioè da un abito così intrigante, interessante, con la musica e con il suo modo di fare, a consigli della nonna, per esempio, come non sprecare, come cucinare con ingredienti avanzati e cose di questo genere. Ha una sua ricetta preferita che vuol darci, per esempio? Ma io ricette preferite non ne ho, io adoro il cibo, per cui faccio di tutto. In questo momento mi trovo per esempio in Valle d'Itria, sto facendo il pane con il lievito madre, il grano Senatore Cappelli. Però che non so cosa sia, ma si presenta bene. È uno dei grani antichi ed è quello non contaminato, perché non tutti sanno che moltissimi dei nostri grani sono contaminati, e parliamo anche della farina 00, insomma, altamente iperglicemica, insomma, non tutti i nostri alimenti fanno bene alla salute, dovremmo ritornare un po' agli alimenti antichi per permetterci di vivere meglio. Cosa fa? L'abbiamo più o meno capito. Dove lo fa? Cioè, lei dove è stato invitato a fare queste performance? E poi se vuol fare un appello a chi fosse interessato a questo tipo di attività, ad invitarla. Ma io sono stato invitato nelle discoteche prima di tutto, poi sono finito in alcuni festival, adesso siamo anche in teatro, quindi il 24 saremo al Teatro Kismet di Bari, il 20 siamo da Hub a Bari, siamo stati a Lecce, siamo stati l'altro giorno a Gravina per l'apertura della mostra. Diamo i contatti, che siamo in chiusura, abbiamo solo pochi secondi per chi fosse interessato. Cosa deve fare? C'è un sito? Beh, il contatto più facile è quello di Facebook ed è Fooding Social Club, oppure la mia pagina personale che è Nick Nicola Di Fino. Benissimo, grazie Nicola Di Fino, Food DJ. Anche per oggi ci fermiamo qua, è tutto. Io ringrazio Giorgio De Luca per l'assistenza oggi in diretta in redazione, Valeria Bernardi che era in regia, e poi Franco Piantanide in redazione, Andrea Piana che ha scritto insieme a me il programma. Ci sentiamo domani a mezzogiorno.